24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 25 secondi di questo venerdì 22 maggio inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Maria Latella, eccoci, buongiorno. Ciao Maria. Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. E questa mattina lasciatemi concentrare su una cosa sola nel nostro viaggio panoramico sui quotidiani, perché c'è una cosa molto importante che vi voglio raccontare. La cosa molto importante è l'intervista che il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha dato alle Figaro. Dice molte cose, ma vi sintetizzo due che mi sembrano particolarmente importanti. Intanto il titolo lo dice subito, senza, come dire, girarci troppo intorno: il nostro obiettivo è la sovranità economica della Francia, in modo che si tolgano di mezzo quelli che pensano che la Francia voglia stare al ricasco della Germania. La Francia ha un piano molto preciso, e in questa intervista spiega anche perché non ha ancora firmato la richiesta del prestito di 5 miliardi avanzata dalla casa automobilistica Renault, che è pure, come dire, partecipata dallo Stato. Però dice ci voglio pensare, Renault lotta per la sopravvivenza, ma io non ho ancora firmato questo prestito. E spiega anche perché ha deciso di presentare il suo piano per il rilancio economico della Francia solo a settembre, perché dice una buona gestione della crisi richiede sangue freddo per scegliere le misure più efficaci, e il piano di rilancio consisterà in una vera trasformazione che richiede un metodo e richiede di consultare tutte gli interlocutori, le formazioni politiche, i parlamentari, le parti sociali e gli economisti. Dunque questa intervista è molto importante, io spero che la facciano leggere al presidente Conte, al ministro Gualtieri sicuramente la leggerà, ma la farei leggere anche ai nostri parlamentari, che mentre perdono tempo, come abbiamo visto ieri in Parlamento, Gazzarra eccetera, non si accorgono che gli altri stanno guardando alle cose essenziali. Il piano economico per rilanciare i loro paesi e trasformare l'Europa in un competitor che possa stare sullo stesso piano di Cina e Stati Uniti. Solo che ci stanno pensando in Germania e in Francia. È il grande tema. È il grande tema. Esatto, come si diceva, in Italia abbiamo iniziato già adesso a dibattere, o quantomeno a discutere in maniera sguaiata, devo dire, come è avvenuto ieri in Parlamento, sulle responsabilità, già adesso che ancora non ne siamo fuori. Andiamo, noi apriamo questa puntata collegandoci con una regione che da ieri è a contagi zero e con il suo presidente che è Luca Zaia, e il Veneto. Buongiorno Zaia, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Un dato confortante quello di ieri, Zaia, un dato confortante, per quanto ci siano 15.000 tamponi da processare, quindi va preso con cautela, però insomma ci dice qualcosa su come stanno andando le cose là in Veneto. Ma guardi, le posso dire che il trend è un trend per noi assolutamente incoraggiante già da quel 10 di aprile, no? Con le prime aperture con i codici Ateco, quindi abbiamo sempre curve in calo. Però è anche vero che una rondine non fa primavera, nel senso che quelli sono dati di laboratorio, quelli del bollettino di ieri sera, che confermano il trend, però ci sono tamponi, ne facciamo oltre 12.000 al giorno, e quindi dobbiamo appunto attendere ancora un po' per dire che siamo indenni dal virus. Maria, prego. Presidente Zaia, lei è uomo pragmatico e lo ricorda sempre. Citavo prima questa importante intervista del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che dà l'idea di quello che stanno considerando importante gli altri. Stanno programmando quello che sarà il futuro dei loro paesi, in questo caso la Francia, da qui ai prossimi decenni. Lei non ha l'impressione che invece qui in Italia ci stiamo perdendo dietro rivoli di piccole grandi polemiche, questioni che di fatto poi si traducono in mozioni di sfiducia che non vengono votate? Insomma, noi stiamo perdendo di vista l'obiettivo, che è quello di far ritornare in pista il paese e soprattutto di rilanciarlo nei prossimi decenni. La domanda quindi è semplice: è proprio necessario fare questa manifestazione del 2 giugno? L'opposizione ovviamente ha tutti i diritti di far sapere che c'è, e poi parleremo anche di altro su questo fronte, però è il momento opportuno secondo lei? Ma guardi, siamo in un paese libero e democratico, per cui tutto quello che è manifestazione civile, democratica, rispettosa, penso che non sia un problema. Il rilancio del paese è un'altra partita, peraltro io conosco bene Bruno Le Maire perché è stato ministro assieme a me all'agricoltura, e dico che l'Italia comunque resta l'ufficio complicazioni affari semplici, nel senso che il bizantinismo è di casa e bisogna ridurre le catene decisionali e bisogna decidersi una volta per tutte di uscire ovviamente da questo medioevo dato dal centralismo e passare a un nuovo rinascimento che è dato da un paese moderno con il federalismo, l'autonomia, che non è una sottrazione di potere come vedono a Roma, ma è un'assunzione di responsabilità da parte dei territori, e con il coronavirus l'abbiamo dimostrato. Questo è un grande tema, è un tema tra l'altro che si aprirà a Zaia ed è molto largo, perché come sa c'è una forte spinta centralista, cioè c'è una parte, no, della politica che dice in realtà questa gestione così diseguale tra le regioni ha creato più problemi che altro, bisogna centralizzare di nuovo. Ma guardi, è una visione medievale che non è già bocciata dalla storia. I nostri ragazzi quando se ne vanno all'estero non è che vanno nei paesi sfigati, vanno nei paesi dove c'è autonomia, c'è federalismo, dove c'è efficienza. Questo paese con la creatività che ha, con i valori che ha e con i potenziali che ha può assolutamente imboccare un nuovo corso, un nuovo rinascimento, ma passando a una totale riforma dello Stato e ovviamente in senso federalista. Guardi, Einaudi, che non è l'ultimo cittadino italiano, nel 48 nel presentare la Costituzione diceva: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, cioè lo dicevano i padri costituenti, non capisco perché qualcuno ancora si ostina a non capire. Torno sempre sullo stesso punto. Prego. L'economia. Le chiedo intanto che cosa prevede per le aziende del Veneto. Mi risulta che ci sia una grande attenzione delle imprese italiane in generale, non so se anche in Veneto, al sud-est asiatico. Insomma, stanno ripartendo e certi paesi come il Vietnam possono diventare dei nuovi sbocchi commerciali per le nostre imprese ancora di più. Ma Sono pronte le imprese? Quante stanno invece in difficoltà dopo 2 mesi di chiusura? E che cosa può fare secondo lei il decreto rilancio sempre per le imprese? Perché secondo me se perdessimo meno tempo in finte o più o meno finte diciamo polemiche politiche e ci concentrassimo su quello che sarà l'economia del nostro presente e del nostro futuro, forse faremmo un bene per tutti. Comunque la domanda è: com'è la fotografia delle aziende in Veneto? Sta riprendendo l'export? Che cosa le racconta? Guardi, noi abbiamo 600.000 imprese, abbiamo un modello di sviluppo che non è fordista, ma è quello del distretto industriale diffuso della piccola e media impresa. L'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti. 150 miliardi / 160 miliardi di PIL. Le nostre imprese sono pronte, sono tutte globalizzate o quasi tutte globalizzate. Devo dire che questa crisi ha fatto perdere circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel mondo del turismo. Consideri che il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato. Detto questo, dico che ci vogliono 2 interventi. Uno materiale, che è quello di iniettare cash, quindi iniettare risorse finanziarie nel mercato e nelle imprese, e dall'altro un intervento immateriale di avere una politica estera degna di questo nome. Noi non possiamo star qui ad assistere a discussioni nelle quali si discute di aprire corridoi privilegiati tra Germania, Austria e Croazia o altre storie del genere, visto considerato che in un mondo globale le scelte devono essere globali. Zaia, ci colleghiamo a questi due temi, a questo e a quello del centralismo, perché insomma noi parliamo della necessità di riaprire ai turisti dall'estero, nel frattempo però restano chiusi i confini tra le regioni. Nei giorni scorsi lei ha fatto un accordo con la provincia di Trento, con l'Emilia Romagna, per consentire ai quelli che possiamo definire i frontalieri, ormai i frontalieri interni all'Italia, di muoversi, ossia chi abita in un paese vicino e ha dei congiunti dall'altra parte del confine regionale può andare e visitarli. Ieri è arrivata dal ministro Speranza un'indicazione piuttosto dura su questo fronte. Dice insomma, i presidenti delle regioni non possono prendere iniziative di questo genere, devono essere solo, queste cose possono avvenire solamente per motivazioni gravi. Che cosa risponde? Beh, la giusta motivazione è dare modo di avere un ricongiungimento ai congiunti, mi scusi il bisticcio di parole, un marito e una moglie divisi piuttosto che due fidanzati divisi hanno diritto a vedersi, punto. La dico solo qui, non è una prova muscolare, noi l'abbiamo fatto con Trento, l'abbiamo fatto con Friuli Venezia Giulia e con l'Emilia Romagna, ma è nell'ottica ovviamente non delle prove muscolari e assolutamente anche con la coscienza del fatto che la guardia non va mai abbassata, non è un atto di irresponsabilità. Del resto il virus non conosce confini, però è altrettanto vero che i confini non ci sono con il virus e quindi non è che cambia molto se un congiunto attraversa il Po e va dalla provincia di Rovigo a Ferrara. Il vero tema è la politica sanitaria che deve tenere. Maria, prego. Senta, una domanda politica che è anche un po' sgradevole, glielo anticipo. C'è chi dice che la Lega si augura che vada tutto male e che quindi in autunno ci sia un gran casino e molti più problemi economici di quanti noi non ci aspettiamo, perché così risalirebbe nei sondaggi e dunque recupererebbe un gran margine di manovra. Molti pensano anche che la sua popolarità, ai sondaggi sta all'80%, potrebbe preludere anche a una sua leadership nella Lega. Che cosa risponde ai primi maliziosi commentatori e alla seconda domanda? Una leadership Zaia nel futuro? Ma guardi, intanto la domanda non è sgradevole. La prima risposta che le do è quella che c'è tanta gente che ha tempo da perdere a studiare e fanno parte dei complottisti, dei terapiatisti. Direi che sarebbe dei responsabili pensare che ci possa essere un partito che punta sul fatto che le cose vadano male. Cioè noi puntiamo sul fatto che le cose vadano bene e che i cittadini si riscattino anche da questo problema. Dall'altro non esiste alcuna possibilità che io abbia dei progetti a livello nazionale per una premiership o quant'altro, l'ho già detto. La mia casa è il Veneto, resto in Veneto. Zaia, oggi lei firmerà un provvedimento che, almeno così ci risulta e così leggiamo dai giornali, che darà il via libera alle strutture per l'infanzia e ai centri estivi, insomma, di fatto si riapre almeno su quel fronte. Conferma? Sì, guardi, non le confermo che firmerò oggi, ma comunque firmerò questo fine settimana perché stiamo facendo ancora approfondimenti giuridici. Sto preparando un'ordinanza anche che prevede anche altri temi, certo che uno dei temi cruciali è quello del dare una risposta alle famiglie che dopo l'anti-lockdown, quindi dopo l'apertura, si ritrovano il grosso problema della gestione dei minori. Quindi il provvedimento riguarderà i 0-17 anni. 0-17 anni, quindi fino appunto a ridosso della maggiore età, in sostanza. Certo. Molto utile soprattutto per tutti quei ragazzi appunto di 15, 16, 17 anni che se no rimangono anche abbandonati a se stessi. Senta, parliamo anche dell'aspetto sanitario, perché appunto il Veneto festeggia un buon dato oggi. Io vorrei capire a che punto è la questione delle 3T, tamponi, tracciamento e test sierologici. L'app è disponibile, quando lo sarà, e i tamponi vengono fatti. Lei come immagina queste 3T nei prossimi mesi, cioè da qui all'autunno, visto che tutti paventano che in autunno ci possa essere una seconda ondata di virus? In questi 3-4 mesi voi continuerete a fare i tracciamenti, userete l'app, userete i test sierologici? Ah, guardi, andando per ordine, per l'app al momento non c'è chiarezza, nel senso che vanno chiariti alcuni aspetti, quelli della privacy, dell'utilizzo dei dati o quant'altro, e se non ci sarà consenso tra i cittadini sarà difficile che i cittadini scarichino l'app e quindi che funzioni questo progetto. Per i tamponi noi abbiamo oggi ne facciamo mediamente 12.000 al giorno, abbiamo un progetto di portarli a 30.000 e se riusciamo a comprare altre due macchine a 50.000. Il tampone si stabilizzerà come modalità diagnostica. Oggi è l'unica modalità diagnostica che ci permette di avere una una stilata, una diagnosi nero su bianco. Dall'altro io sono anche convinto, vedendo un po' i movimenti a livello internazionale, che arriveranno sicuramente dei test ancora più rapidi. Ricordo che il tampone intercetta il contagiato dopo il settimo giorno dell'avvenuto contagio. E i tamponi restano la nostra strategia, e materialmente sono io colui che ha deciso di fare i famosi 3.000 tamponi a Vo, nel senso che ci ho sempre creduto, ho deciso quella sera contro le linee guida e la storia mi ha dato ragione, per cui noi continuiamo ovviamente ad applicare questa attività diagnostica. A proposito di Vo, c'è questo tema dei soldi per le zone rosse o ex zone rosse, Zaia, no? 200 milioni di euro che dovrebbero arrivare, o meglio, che a quanto pare non sono previsti, anche se ieri il ministro Gualtieri ha detto: guardate, ci sono, non vi dovete preoccupare, arrivano, ha ricevuto le rassicurazioni. Guardi, ci sono, non vi dovete preoccupare, sono loro che devono preoccuparsi, ma mi perdoni, hanno fatto un decreto, è diventato legge perché è stato bollinato, e poi prima volta nella storia della Repubblica Italiana, con un comunicato pubblicato in Gazzetta, lo correggono il testo, rifanno un testo. Se qualcuno mi spiega giuridicamente come sia possibile questa cosa, stia tranquillo che se non lo modificano d'ufficio, glielo farà modificare un tribunale, perché io questo decreto lo impugno. In questo decreto c'è scritto che 200 milioni vanno alle zone rosse e il Veneto è sparito come zona rossa. Una roba scandalosa. Ne abbiamo avuto 1820 morti, quasi 4500 ricoverati, e siamo stati martoriati da questa vicenda. Perché non esiste che il Veneto sia fuori. Alle zone rosse ce le ha avute per più di 30 giorni, per cui Veneto ha tutti i titoli. Vuole scommettere che risolvano il problema prima che arriviamo in tribunale? A proposito di tribunali, Zaia, ieri Salvini ha scritto a Mattarella per esprimere preoccupazione circa quello che in una chat pubblicata sul quotidiano La Verità emergeva dalle conversazioni di alcuni magistrati. Secondo lei Salvini sarà costretto a cavalcare il tema della giustizia per anni? Che ne pensa? Guardi, questa è la mia lacuna, non ho approfondito, ho letto dei titoli dell'agenzia, mi deve scusare. Certo è che io non faccio parte di coloro che pensano che la magistratura sia tutta poco in linea, diciamo, con rispetto delle leggi. E penso che se c'è qualche mela marcia, come in tutte le buone famiglie, deve essere identificata. Dopodiché ho letto di questa chat, ma le dico la verità, non ho neanche letto il contenuto della chat. Se Salvini ha scritto, vuol dire che c'era modo e motivazioni per scrivere. Ultima domanda politica, Zaia, o semipolitica. Dopo le parole di ieri del Movimento 5 Stelle, di Ricciardi in Parlamento, le avrà sentite. Crede che, come scrive qualcuno, il Nord sia sotto attacco? Si sente di solidarizzare con la Lombardia? Come la vede? Ma guardi, il tema dell'attacco del Nord è assurdo, perché poi la Costituzione è chiara, e la Costituzione è stata scritta da dei padri costituenti che prevedevano... Quindi c'è questo attacco al Nord, Zaia? No, c'è un attacco da parte di qualcuno che vede l'autonomia, gliel'ho detto prima, come una riduzione, una perdita di potere. È una visione bieca, è una visione che non ha nessun futuro. Questa gente è nel Medioevo, non ha capito cosa sta accadendo nel mondo. Cioè, sono ancora con una mente analogica in un mondo digitale. Penso che non ci sia un problema di attacco al Nord, c'è il problema di qualcuno che non ha capito dove sta vivendo e in che momento sta. Ma solidarizza con la Lombardia o no, Zaia? Assolutamente sì, ma mi perdoni, guardi, glielo dice una regione che ha titolo di parlare di coronavirus. La Lombardia ha avuto un attacco, un'onda di contagio da paura. La Lombardia ha affrontato un territorio che è diverso da quello del Veneto, perché hanno realtà metropolitane che noi non abbiamo, e posso dire, fare polemica sui morti, sulle disgrazie delle persone è sempre squallido. Ma lei l'avrebbe fatto l'ospedale Astronave? Lo considera utile? Lo chiede una persona che non conosce gli elementi, per cui come posso valutare se sia corretto aver fatto un ospedale? Se hanno deciso che fosse una soluzione, poi sono tutti bravi a fare le analisi alla fine, no? Cioè, una volta c'era la schedina e si giocava entro il sabato per fare il 13. C'era anche qualcuno che la voleva giocare il lunedì. Quelli che giocano il lunedì non sanno nulla. Grazie Luca Zaia, presidente del Veneto. Buon lavoro. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. A voi, buongiorno. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parliamo di futuro e di futuro delle nostre città con Enrico Giovannini, con l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, a tra un attimo. 24 Mattino. Ed eccoci di nuovo, Enrico Giovannini, portavoce dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ex ministro del lavoro, presidente dell'ex presidente dell'Istat, ora membro tra l'altro della Task Force guidata da Vittorio Colao. Buongiorno Giovannini, eccoci. Buongiorno. Eccoci, Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano ed europarlamentare. Albertini, buongiorno anche a lei. Buongiorno a chi ci ascolta e a lei. Maria, prego. Buongiorno. Simone, prima di fare una domanda a Giovannini, vorrei tranquillizzare il nostro ascoltatore che ci dice: non usate delle parole poco forbite, siete abituati a usare un buon linguaggio. Simone, d'ora in poi non dirò mai più la parola casino, giuro. No, e se lo dico tu riprendimi, eh? Sì, mi raccomando. Sì, per carità, sì, sì, sì. Ma no, ma piantiamola. Sì, ma diamo pure casino. Va. No, però va, scherziamo bene. Anche un po', perché son stati mesi pesanti e lo saranno ancora. Ogni tanto bisogna alleggerire con un sorriso. Senta, Giovannini, lei proprio ieri ha organizzato un dibattito a distanza, come ora si usa, proprio sul futuro. Noi piacerebbe cominciare sul futuro delle città. Tutti stiamo pensando che lo smart working è stato utile. Lei pensa che si tornerà indietro? E se non si torna indietro, come faranno le amministrazioni comunali a organizzarsi? Perché cambierà anche per i comuni, tanto per cominciare sul fronte dei trasporti. Intanto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è home working, cioè lavoriamo da casa, studiamo da casa, non è necessariamente smart, cioè intelligente. La differenza la conoscono bene quelle imprese che già usavano smart working, vuol dire anche fare formazione su come si lavora a distanza. Invece noi siamo stati buttati, come dire, in una piscina come bambini piccoli, dicendo adesso nuota e più o meno nuotiamo, ma non è che sia proprio questo quello a cui dovremmo ambire. Io credo che ci sarà un cambiamento strutturale. E le faccio l'esempio di una persona che conosco, una fabbrica che ha continuato a lavorare e adesso rientrano i dipendenti, diciamo non gli operai. Bene, divisi in due gruppi, il lunedì lavora il gruppo A, il martedì si sanificano gli ambienti, il mercoledì lavora il gruppo B, il giovedì si sanificano gli ambienti. Lei capisce che è un disastro, oltre che un sistema molto costoso. Quindi credo sarà una grande opportunità per rivedere i nostri tempi di vita, i tempi di lavoro, e le città avranno una grande opportunità per ridisegnarsi. Da questo punto di vista segnalo una norma inserita nel decreto rilancio, che è il fatto di aver abbassato a 100 addetti il limite per l'obbligo per le imprese e le amministrazioni pubbliche di creare il mobility manager, cioè l'interlocutore per le amministrazioni comunali con cui lavorare insieme per una mobilità sostenibile. Sì. È una buona opportunità. Come si organizza una città? Gabriele Albertini, cioè lei ha esperienza amministrativa, anche esperienza d'impresa, oltre che esperienza politica. Insomma, si è riuscito a fare un'idea di come cambieremo? Se sarà un cambiamento definitivo quello che stiamo per affrontare o limitato al fatto che a un certo punto, prima o poi forse, il vaccino si troverà o impareremo a convivere con questa malattia e in generale con le pandemie? Albertini. Mi sono ricordato di quando lavoravo in ditta Albertini e qualche consulente aziendale riferiva sempre questo refrain che ricompare ora d'attualità. Dice: ma guardi che questa crisi in realtà è un'opportunità, perché è un modo per rigenerare l'azienda, ristrutturarsi, migliorare, eccetera. Ora, obiettivamente in questo scenario la pandemia non ha niente di buono, è solo un problema per i morti, per gli ammalati, per la sanità e anche per l'economia. Però volendo trovare qualcosa di buono, l'emergenza ci ha indotto a fare degli investimenti, a assumere dei comportamenti, delle condotte che forse potevano essere comunque fatte, ma che sono state accelerate dalla necessità. E qui mi trovo d'accordo con il professor Giovannini, ma non solo con lui, perché è un pensiero diffuso. È chiaro che la differenza tra l'home working e lo smart working è proprio questa, cioè quando si è costretti si fa qualcosa, quando invece si riescono a trovare le condizioni anche tecnologiche, oltre che psicologiche, comportamentali, per farlo meglio, allora diventa smart e quindi diventa una scelta, non una necessità. Quindi, fuori di metafora, il lavorare da casa con un sistema digitale di connessione molto più efficiente di quello che sperimentiamo ora e con una diffusione del medesimo può essere una soluzione che migliora la vita, perché lo spostarsi da casa a lavoro non è una gita, è un fastidio, è un tempo sprecato, non si riesce a lavorare o a fare altro di divertente mentre ci si muove, è una scocciatura, diciamo, oltre che in questo caso un rischio. Quindi il futuro sarà sicuramente, a prescindere dall'emergenza sanitaria, uno scenario in cui il lavoro da casa, senza spostarsi fisicamente dall'abitazione al luogo di lavoro, prenderà piede. Poi, per quanto riguarda il trasporto pubblico, visto che c'è stato un accenno su questo, beh, insomma, le metropolitane, qui non voglio fare riferimenti politici, ma insomma le sardine, diciamo, hanno uno scenario non molto gradevole, perché il distanziamento in questo momento, detto da tutti, è l'unico modo per evitare di ammalarsi, visto che non c'è un farmaco per curare e un vaccino per prevenire. Ma Albertini, ma rimane tutto questo secondo lei? Rimarrà tutto questo? Secondo me, per la parte digitale, smart, non più remoto, home working, sì. Per quanto riguarda invece quest'altro aspetto, cioè quello del trasporto, che a questo punto dovrà essere un po' più individualizzato, che siano le biciclette, i monopattini oppure degli scafandri con cui giriamo o altro, o le auto elettriche, non ho idea. E su questo non sono sicuro che sarà così la situazione, però qualcosa dovrà modificarsi perlomeno nei tempi, cioè quando lo spazio è ristretto, non è niente di geniale, è di puro buonsenso, si distribuisce l'utilizzo dello spazio nel tempo e quindi non più ore di punta, ore di morbida, lavoreremo 24 ore al giorno spalmate e 365 giorni all'anno spalmate. Maria. E vorrei proprio chiedere, alla luce di questo, scusate, a Giovannini, come cambieranno anche i nostri bisogni di case e di edifici. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa col sindaco Sala. Milano stava assistendo a un boom della costruzione di uffici perché stava vivendo un percorso molto scalpitante in questo senso. Ora però sembra cambiare tutto, perché appunto sarà anche più comodo per le aziende e per i dipendenti lavorare da casa, le aziende risparmieranno sugli uffici e sui tempi di lavoro anche. Quindi che cosa faremo di tutti questi uffici che si stavano costruendo e di tanti che ci sono e sono anche rimasti vuoti? Che succederà? La domanda è assolutamente pertinente e molti si stanno domandando che cosa succederà, soprattutto se pensiamo al caso del call center. Alcune imprese confermeranno il fatto che si lavorerà da casa e quindi i grandi uffici non serviranno più. A questo punto ci sono tre possibilità. La prima è che il mercato crolli e questo non aiuterebbe naturalmente il settore dell'edilizia. Seconda possibilità che in base a una partnership privato-pubblico si pensi a un riutilizzo di quegli spazi magari anche per attività sociali o per la riconversione verso il cosiddetto social housing. Non è semplicissimo in alcuni uffici immaginati per essere, diciamo, dei grandi spazi condivisi, ma non è neanche irrealistico immaginare una condivisione. Lei pensi che a Singapore hanno costruito, hanno deciso che da adesso in poi i box dovranno avere un'altezza più elevata rispetto a quello standard, perché sanno già che tra un po' di anni, poiché ci si sposterà di meno e ci si sposterà diversamente, i box dovranno essere riconvertiti in abitazioni. Ecco, questo è un paese che pensa al futuro, al di là di quello che possiamo pensare sul sistema politico di Singapore, ma è quello che credo le città dovranno fare. E cioè, e questa è la terza soluzione, da ora in poi tutti i progetti dovranno essere pensati per una flessibilità di utilizzo E altro elemento, forse ci sarà maggiore distribuzione anche di spazi condivisi, perché probabilmente invece di fare n chilometri per andare tutti nello stesso ufficio, probabilmente ci saranno sedi più piccole in giro nella città per fare un smart working, ma non da casa, magari condiviso in meno persone. Cambia anche la distribuzione all'interno delle città, insomma i dati che sono arrivati nelle scorse ore e che si stanno segnalando dal lato del mercato immobiliare, un mercato immobiliare comunque in difficoltà, ci dicono cosa? Ci dicono il fatto che la gente sempre di più tende a fuggire dalle case piccole, perché insomma questi due mesi abbastanza duri a stare tutti dentro una casa piccola, magari in una famiglia grande, cioè sono complicati, e l'idea che ci possano essere recrudescenze, nuove pandemie, spinge la gente un po' più fuori città e verso case più grandi. Anche questo, Albertini, è un cambiamento. Penso a una città come Milano soprattutto, no? Ma non solo Milano, un po' tutte le grandi città, però a Milano questo problema è particolarmente forte. Sì, ma intanto volevo fare una chiosa a quello che ho ascoltato, cioè gli uffici, parliamo dei grattacieli recenti da Porta Nuova sul territorio di Milano o City Life, dove si sono concentrate le attività di Unicredi piuttosto che di Allianz, di Generali eccetera, in quei casi non è che sono aggiunte ma sono sostituzioni, cioè gli uffici sparsi nel territorio sono stati concentrati in un luogo, è successo lo stesso per Palazzo Lombardia, per gli uffici della regione, quindi non c'è stato un grandissimo, enorme incremento, se non quello dovuto alla domanda che è cresciuta, ma per altre ragioni, non perché si sono costruiti i grattacieli, perché c'è stata una domanda di servizio che è incrementata per il PIL, per l'attrattiva della città, eccetera. Quindi farei una riflessione su questo tema. Per quanto riguarda poi le abitazioni, se è vero quello che dicevamo prima, cioè che ci sarà uno sviluppo del home ma poi smart working, forse le nostre abitazioni, anche quelle metropolitane, non solo quelle diciamo di campagna ma utilizzate comunque per finalità diverse da quelle del ristoro, della vacanza, anche quelle del lavoro, se è così, una stanza apposita per lo smart working, come c'è la cucina e il bagno, che sono dedicate ad alcune attività, potrebbe essere concepita lo dai studio, lo studio, come una volta. Lo esatto, studio. Uno studio che prima era riservato, diciamo, ai professionisti, diciamo, di alto profilo, ma oggi potrebbe essere esteso a tutti, un luogo dove magari con lo sviluppo del digitale, non so, compariranno degli ologrammi invece che uno schermo che a volte interrompe l'immagine o un suono frammentato, perché tutto sarà molto più tecnologico, in cui si potrà fare una riunione di lavoro con la sensazione quasi fisica di essere nel luogo in cui si svolge o si svolgeva, e ora è rappresentato appunto da ologrammi e altro del genere. Ecco, io penso che Albertini sia uno di quei sindaci che ha visto lontano, no? Anche come Letizia Moratti, parliamo di Milano. Sicuramente. Perché ha guardato a quello che sarebbe stata la città anche quando lui non sarebbe più stato sindaco. Pensa a un altro sindaco a New York, Bloomberg, che ha voluto, dopo un uragano che procurò decine e decine di morti a New York, si mise lì e disse: ma quale sarà il futuro di New York? E ha fatto un piano che si chiama New York 2050, il quale piano viene riaggiornato ogni 4 anni. La mia domanda è, con la vostra esperienza, non ci sarebbe bisogno di un piano appunto da qui al 2040 almeno per le grandi città, penso a Torino, a Milano, a Venezia, a Roma, esistono secondo voi questi piani? Io non ne ho conoscenza. Su Milano siamo impegnati da 2 anni su Milano 2046, e così come altre città hanno fatto già delle sperimentazioni di questo tipo, grandi città in tutto il mondo, Londra, Barcellona, Amsterdam recentemente, poi dico una parola su questo, fanno esattamente questo lavoro, che però non resta un documento che poi viene messo in un cassetto, ma diventa veramente il quadro programmatorio. Qui ci sono due considerazioni: verso dove questa programmazione può andare. Come Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, da 2 anni abbiamo creato questa agenda urbana per lo sviluppo sostenibile. Allora, professor Giovannini, la interrompo solamente perché purtroppo è esaurito il nostro tempo. Prometto a lei, Albertini, agli ascoltatori, anche Fabrizio da Mantova, che ci dice: guardate, i miei dipendenti, sono un imprenditore, i miei dipendenti non vedevano l'ora di tornare in ufficio, che torneremo su questi temi, perché sono temi importanti alla luce di tutto questo. Grazie a Enrico Giovannini, grazie a Gabriele Albertini. Maria, ci risentiamo lunedì. Abbiamo imparato delle cose anche noi, almeno io le ho imparate, grazie. Ci sarà tempo buon per weekend. Approfondire ciao, la Simone. Discussione. Buon fine settimana a tutti, ci risentiamo alle 6:30 di lunedì. Ciao!